Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, è arrivato anche il jingle di Natale, francamente sentivamo un tantinello la mancanza. Dunque, occasione più unica che rara per la Juventus di allungare a più 4 sul Milan. Succederà stasera all'Olimpico, dove la Roma sarà infatti ridotta davvero ai minimi termini nel settore difensivo. De Rossi, pensate, dovrà arretrare a centrale, a far coppia con Heinz e fin lì tutto più o meno bene, anche se ovviamente alla Roma mancherà il suo incontrista a metà campo, dovendo per l'appunto fare il centrale difensivo, ma con Rosi e Taddei esterni su quelle corsie dove la Juve è abituata a colpire e a raddoppiare anche, no? con Lichtsteiner, con Pepe, con Estigarribia e con altri, la sfida sembra davvero molto ma molto squilibrata in partenza sulla carta, perché poi le partite bisogna giocarle. Comunque in prospettiva Juventus-Milan, questo mi sembra un po' il tema del fine settimana, che si conclude per l'appunto stasera per via di spalmature assortite, ma ovviamente non si possono dimenticare né la Lazio, ma né tantomeno l'Udinese, che al momento è fino a prova contraria la classifica la comanda. E provate a sentire questi numeri. Dunque, intanto è il miglior punteggio dell'Udinese di sempre, perché dopo 14 partite era arrivato nel 97-98 a quota 29 punti sotto la guida di Zaccheroni, ma adesso con Guidolin è andato un punto oltre. Non solo, 7 vittorie su 7 allo Stadio Friuli, è un primato europeo che fino all'altra sera l'Udinese condivideva con alcune squadre, adesso con due di meno. Una è il Palermo, che ha perso in casa col Cesena, l'altra è il Real Madrid, che ha perso in casa col Barcellona, sicché sinora a fare il pieno in casa in tutta Europa sono rimasti il Manchester City in Inghilterra, la Z in Olanda e il Benfica in Portogallo, più l'Udinese per l'appunto. L'Udinese che tra l'altro avrà nelle due prossime partite, non che abbia bisogno di ulteriori conferme, ma insomma se davvero c'è la speranza di poter puntare, di poter arrivare in fondo, adesso arrivano due sfide decisive consecutive. Perché? Perché l'Udinese gioca domenica sera a Roma sul campo della Lazio e successivamente mercoledì pomeriggio nel recupero della prima giornata sul suo campo contro la Juventus. Quindi dopo le 7 partite il tentativo di arrivare a 8, ma contro la potenziale capolista, ripeto, e poi vedremo stasera se lo sarà diventata davvero nei fatti. Sentiamo, a proposito appunto di quanto può durare, sentiamo proprio Guidolin. Beh sì, è bello, per noi è molto bello, è un momento magico che sta durando e noi proviamo a farlo durare il più lungo possibile. Abbiamo fatto un primo tempo nel quale non andavamo al ritmo nostro e forse un po' di scorie, di qualche complimento di troppo ricevuto a Milano, non lo so, comunque complimenti al Chievo che è comunque un'ottima squadra. Nel secondo tempo i ragazzi sono stati straordinari, hanno fatto proprio la partita che avremmo voluto fare, hanno giocato ad altissimi ritmi per tutto il secondo tempo e credo che abbiamo meritato, perché abbiamo costruito tanto, anche se il finale è stato ancora pieno d'ansia perché Paloschi ha dimezzato le distanze. Io credo che dobbiamo vivere il nostro presente con grande entusiasmo, con grande serenità, con grande gioia, indubbiamente, perché è bella, la classifica è stupenda, il momento è straordinario, vediamo fino a quanto durerà. Le due prossime partite diranno qualcosa di più sulla durata del fenomeno Udinese, senza dimenticare, ne abbiamo già parlato in passato, che poi la squadra perderà a gennaio 3-4 pedine importanti per un mese, 3-4 pedine di quelle chiave, a cominciare da Asamoah e da Armero, perché andranno a giocare, comunque Asamoah sicuro, ma a giocare la Coppa d'Africa. Da questo, proprio in questa ottica, Guidolin sta cominciando a fare un minimo di pressione sulla società per dei rinforzi. Io credo che se dovesse raccogliere punti o comunque non restare aggrappata a questo tipo di classifica anche dopo Lazio e Juventus, cioè tra una settimana, ma io penso che la società perlomeno entro certi buoni limiti potrebbe anche accontentarlo. Tra poco cominciamo con i vostri consueti interventi in diretta del lunedì. Prima io sentirei anche, andrei proprio all'Olimpico, andrei alla vigilia immediata di Roma-Juventus sentendo i due allenatori, a cominciare da Luis Enrique. Io l'ho detto due volte, ma qui nel calcio lo sappiamo tutti, i risultati sono quello che mandi, mai si sa che cosa succederà, mai, nunca dias nunca jamás, mai dire mai. Sono un po' stanco già, sai perché? Perché io penso sempre nella squadra come prima cosa e io devo rispondere di modo politico. Tutte cose, sì, tutti i cosi che interessano in più a voi, che sono le cazzate di che cosa è successo, se uno ha fatto così e l'altro ha fatto il dedo qui al nas, quella a me non mi interessa. Io cerco di controllare un gruppo, cerco di fare che tutti pensano che lo primo è la squadra prima del suo interesse e tutto quello succede con tutti i calciatori. Beh, insomma, diciamo che sul piano nervoso Luis Enrique comincia ad accusare l'usura romana, che è durissima per tutti, anche per gli allenatori più navigati. Io ricordo Capello, ricordo lo stesso Ranieri lo scorso anno, ma insomma l'elenco sarebbe interminabile. A maggior ragione l'usura la avverte un tecnico giovane che è abituato sin qui forse più alla teoria che alla pratica, no? Visto che altro era il Barcellona B e altro invece è una piazza per l'appunto come quella romana. È un problema che Conte non ha, perché il calcio italiano certamente lo conosce bene, è passato anche attraverso qualche disavventura all'Olimpico, come lui stesso ha ricordato ieri. Sentiamo Conte. Siamo due allenatori che vogliamo fare la partita, questo non, no. Sono due squadre che insieme al Milan hanno il maggior possesso palla di tutto il campionato, quindi comunque basta questo per parlare di analogie molto molto simili. Ognuno ha la propria filosofia, però penso che la voglia di giocare a calcio, che penso che ci accomuna, ecco. Spesso e volentieri, ripeto, si pensa che il calcio sia matematica e che in base al risultato uno stia facendo un buon lavoro o uno stia facendo un cattivo lavoro. Io dico che Luis Enrique sta facendo un ottimo lavoro. Sono Asamoah, Benatia e Badu gli elementi dell'Udinese che la squadra si vedrà sottrarre nel mese di gennaio per via della Coppa d'Africa. E vediamo se la società correrà almeno parzialmente ai ripari, vista la situazione di classifica. Domani c'è un altro recupero, anzi c'è un altro, domani c'è il recupero, perché questa sera è soltanto la fine di questa giornata. Il recupero in questione è Genoa-Inter, sarà diretto da Banti di Livorno. E l'Inter tornerà ad avere a disposizione Diego Forlan, il che non è detto, che non significa che Forlan giocherà, visto che è reduce da un lungo infortunio, però è tornato ufficialmente tra i convocati. Io introdurrei ancora un argomento prima del primo intervallo di giornata per sentire queste dichiarazioni, tutto sommato, anzi non tutto sommato, proprio in assoluto, abbastanza spiazzanti, abbastanza inusuali da parte di un allenatore, e sono quelle rilasciate da Allegri ieri a proposito degli episodi che hanno contraddistinto Bologna-Milan. A vederlo così, a vederlo da dietro sembra che ci sia, poi a rivederlo vediamo, questa faccio un'immagine diversa, vediamo un po', ha calciato, si è buttato, lui ha calciato, si è buttato, anche perché le cose non si possono cambiare, cioè negare l'evidenza, cioè quando il rigore c'è si dice che c'è, quando non c'è non c'è, non se le sta a dire che una roba che c'è e dire che non c'è, quindi. Però indipendentemente di queste decisioni arbitrali, purtroppo abbia lasciato due punti in campo, una partita sicuramente che non era semplice, anche perché siamo andati in svantaggio al decimo su un contropiede, su una palla lunga. Odiva è stato molto bravo soprattutto il primo tempo a muoversi tra i due centrali e noi siamo stati meno bravi nell'andare ad anticipare queste situazioni. Abbiamo sentito questa singolare, ripeto, perché è soltanto giusta se lui l'ha vista così, a parte secondo me proprio del tutto così non era, ma insomma non ha nessuna importanza. In genere gli allenatori fanno il catenaccio vero, lo fanno alla fine ai microfoni, invece Allegri si è comportato in maniera diversa. Ci sono già una serie di ascoltatori collegati, volevo soltanto ancora aggiungere un paio di curiosità numeriche alla giornata. Beh, uno Uno è il numero 136, che sono i gol, la quota di gol a cui è arrivato Di Vaio in Serie A con la prodezza di ieri. A quella quota, 136, Di Vaio ha raggiunto Brighenti, grande centravanti del fine anni 50 e anni 60, e insegue Chiesa, che è a quota 138. L'altra curiosità, questa lo è davvero a pieno titolo, perché Le Grottaglie, che non è esattamente un cannoniere, ha fatto 3 gol all'Atalanta nella sua carriera, con quello di ieri con la maglia del Catania, e tutti questi gol li ha segnati a Bergamo. È proprio, è come se avesse una, non so, è casa sua veramente il campo di il campo di Bergamo per Le Grottaglie. Angelo ha chiamato da Pescara, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Senta, volevo fare una domanda, o più che altro uno sfogo, una considerazione. Esco un po' fuori dal coro, perché è una domanda che riguarda la mia squadra di cui io dove abito e tifo, sarebbe il Pescara. Io volevo sapere, mi dia lei un giudizio, ma il signor Zeman quanto deve ancora pagare perché possa allenare tranquillamente, visto che diciamo sono 2 partite a questa parte che ci sono alcuni errori arbitrali madornali? Io solo questo, cioè mi dica un po' lei. Non ne ho la minima idea, non seguo il calcio minore, potrei cavarmela così, no? Visto il tono e l'impostazione. Poi in realtà questa è soltanto una battuta, però sinceramente non ho idea di torti e ragioni, perché davvero si giocano troppo in Serie A, in Coppa dei Campioni, cosa per riuscire a star dietro anche alla B, ed è un peccato, perché certe partite varrebbe magari la pena rivederla. Io ho sempre creduto pochino alle congiure contro qualcuno. Ho qualche esempio in passato, mi pare che abbiamo tutti, di magari di congiure a favore di qualcuno, ma che uno davvero venga preso le mirine da chi poi, e in questo momento in maniera particolare, sono discorsi che mi sfuggono, no? E quindi sinceramente non credo di essere la persona più indicata ad illuminarla. Da Brescia ha chiamato Guiar, dico bene? Sì, molto bene. Molto bene. Io volevo chiedere 2 considerazioni sull'Udinese, sul momento dell'Udinese. Come mai l'Udinese, c'è, cioè, lo stadio è sempre quasi vuoto, non c'è mai, cioè pure una piazza non è che è tanto calda, che c'è casino, insomma. Poi la seconda è che l'Udinese come mai investe solo sui stranieri, invece su pochi italiani? Volevo sapere il suo consiglio. Grazie. È bella domanda. Quella, la seconda, lei è uno straniero evidentemente, Guir, no? Sì, da 20 anni che sono in Italia. E arriva da dove? Albania. Pensi, Guir, che Udine, ma non sì, Udine come provincia, come regione, insomma il Friuli, era celebre negli anni 30, 40, 50, arriviamo pure fino ai circa ai 70, per sfornare grandi atleti, calciatori in particolare, ma non soltanto. La chiamavano la razza Piave, e la razza Piave era un po', era quella che innervava in buona parte il calcio italiano. C'erano, ne parlavo recentemente con Dino Zoff, c'erano almeno 2 o 3 giocatori per squadra in tutta Italia che arrivavano da quelle parti, perché evidentemente c'era una vocazione. Adesso che l'Udinese ha una dimensione che allora non aveva, perché sì, ha avuto un buon momento, anzi un grande momento a metà degli anni 50, ma poi è subito rientrato. Adesso che c'è l'Udinese, probabilmente migliore di sempre, se non altro come durata e come continuità, non c'è più un italiano che cresca da quelle parti, e io credo sia un effetto della globalizzazione, insomma. Poi l'Udinese ha un metodo di reclutamento assolutamente singolare, o comunque che ha fatto scuola, perché adesso qualcuno ha cominciato a imitarlo, ma insomma i giocatori li vedono in TV, hanno videocassette, registrazioni dirette, cosa da ogni parte del mondo. La loro è una centrale in piena regola di osservazione, appunto, ma veramente a 360 gradi sul mondo. E poi una volta che hanno selezionato, che secondo loro hanno visto qualcosa che vale la pena, qualcuno che vale la pena di essere seguito più da vicino, allora prima di procedere a una trattativa, a un acquisto o a quello che è, allora stringono e parte un osservatore diretto e va sul posto a vedere giocare qualche partita consecutiva a questo giocatore, va a studiare le abitudini di vita, i comportamenti, i caratteri. Credo che sia un metodo modernissimo di fare che sta dando enormi frutti. Quanto poi al fatto che allo stadio vadano in pochi, lo stadio è troppo grande per Udine. E quindi effettivamente, pensando che sono primi in classifica, vedere tutti quei vuoti allo stadio Friuli una certa impressione la fa. Notizia Lazio, sì, Marchetti, portiere, è fuori fino a dopo la sosta, perché è stata confermata questa lesione al bicipite femorale destro, e quindi niente da fare per Marchetti, appunto, fino a dopo l'Epifania. Maurizio ha chiamato dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto complimenti per la sua professionalità. Mm-hmm. E poi volevo chiedere, adesso alla luce dei suoi complimenti che ha fatto ad Allegri, però mi viene il sospetto, non è che Allegri abbia fatto un po' il furbino, visto che Seedorf non ha ammesso il suo fallo di mano? Poi, se posso... No, perché ha parlato prima Allegri. Ah, comunque volevo sapere, una curiosità, gli stadi di proprietà, quando uno vuole comprare una società deve comprarsi pure lo stadio? No, no, assolutamente idea, Maurizio, questa la girerò a Marco Bellinazzo, perché mi coglie alla prima occasione, mi coglie completamente impreparato. Io invece, per quanto riguarda la prima parte, non sono poi nemmeno convinto, così almeno adesso accendiamo un pochino le polveri, io non sono poi nemmeno convinto che il Milan ieri sia stato così favorito dall'arbitro, perché se metto in fila tutti gli episodi, penso che di Rocchi ne riparliamo un altro anno innanzitutto in senso tecnico, perché ormai mancano due partite alla fine del 2011, e credo che per due partite almeno un po' di riposo sia il minimo da concedergli. Ma se invece parlassimo proprio di un altro campionato, forse sarebbe meglio ancora, perché bastano due arbitraggi, io credo, a un livello professionistico così alto, due arbitraggi come quelli di Inter-Napoli, in cui addirittura falsò il risultato e la partita, e a distanza di 2-3 mesi questo di Bologna-Milan, in cui non so se ha falsato il risultato, certamente meno di allora, ma in ogni caso non ne ha azzeccata mezza, io credo che basti avanzi per far prendere qualche decisione più severa sul conto di quest'arbitro. Io credo che, tra l'altro, paradossalmente arbitra molto bene, o bene comunque, fuori dai confini. Chelsea-Valencia è stata l'ultima esibizione di pochissimi giorni fa, e poi invece nel nostro campionato ogni tanto o ogni poco incorre in giornate disastrose proprio come quelle di ieri. Alessandro, provincia di Cuneo, buongiorno. Buongiorno. Mi è venuta in mente una piccola curiosità. Stiamo celebrando Udinese, Juventus, per il record di imbattibilità della Juventus e di vittorie in casa, no? Però mi chiedevo, se fosse giocata quella prima giornata, sicuramente uno dei due non sarebbe neanche cominciato. Perché magari pareggiavano e sarebbero tuttora imbattuti, magari faceva 0-0 e l'Udinese continuerebbe ad avere pochissimi gol subiti. Sì, se si fosse giocata, no? Non si è giocata, sinceramente io capisco che l'Italia sia la patria dei sofismi, ma questo lo trovo proprio abbastanza gratuito. Comunque si gioca, mercoledì prossimo alle ore 18 si gioca Udinese-Juventus, e quindi potrà levarsi questo pensiero. Maurizio ha chiamato da Piacenza, buongiorno. È veramente un piacere, Garanzini. Grazie. Allora, innanzitutto io sono tifoso del Piacenza, quindi mi porto questa croce infinita. Al di là di questo, mi sono innamorato veramente dell'Udinese, così come mi ero innamorato quando c'era Zico, che era il mio riferimento quando giocava a calcio. Dovesse farmi un nome di un centrocampista da prendere a gennaio? Questa è la prima domanda. E l'altra, la prego, mi faccia una polaroid sul classico, come solo lei può fare. No, la polaroid sul classico la facciamo domani, perché vale la pena di... Tanto ormai sono passate 36, o quante sono le ore, sono passate tante. Facciamone passare altre 24, ne parliamo insieme a Fabio Tavelli. Nel frattempo mi calmo ulteriormente, perché lei capirà che la serata di sabato è stata abbastanza emozionante, e anche perché ha avuto un esito completamente inatteso, tanto più dopo 20-22 secondi di partita. Quindi no, quello domani. Il centrocampista non lo so, io mi fiderei molto di Guidolin, perché saprebbe lui che genere di caratteristiche deve avere sia tecnicamente che tatticamente, che magari anche da un punto di vista caratteriale, deve avere una pedina che temporaneamente, solo temporaneamente, almeno sulla carta, deve sostituire gente, uno per esempio come Asamoah. Io, se dovessi buttargli un nome, glielo butto per l'attacco, allora, dove io credo che l'Udinese avrebbe bisogno davvero di un grande rinforzo per affiancare ogni tanto Di Natale, o per sostituirlo quando proprio si tratta di raccoglierlo con cucchiaino, anche per le fatiche di Europa League. Io investirei su Amauri e credo che non me ne pentirei nei panni dell'Udinese. A proposito di vittime preferite, beh, anche il Palermo per Mutu lo è quello che è valso la vittoria al Cesena contro il Palermo, per l'appunto, a Palermo, che ha interrotto l'imbattibilità palermitana. È il settimo gol di Mutu in carriera al Palermo, e sono anche in questo caso davvero, davvero tanti. Denis ha chiamato dalla provincia di Milano, buongiorno. Salve, io volevo parlare un po' dell'Inter, volevo sapere come mai, nonostante si sia dimostrato che ci sono bravissimi giocatori in Italia, si ostinino a acquistare futuri talenti che poi si rivelano, cioè, bravi giocatori, ma fino a un certo punto. Coutinho piuttosto che altri giovani che secondo me si possono trovare anche in Italia. Non lo so, mi pare che l'esterofilia interista non sia un fatto inedito, no? Mi pare che siano un po' di anni che funziona a questa maniera, quindi non, sinceramente non, mi pare che la sorpresa sia alle spalle, sarebbe sorprendente il contrario semmai, ma da questo punto di vista mi pare che l'Inter abbia fatto strada e sia diventata un po' contagiosa, perché comunque sono sempre meno le squadre che puntano sul mercato interno e sempre di più invece quelle che vanno a cercare i ragazzi all'estero, anche per un fatto di convenienza, capiamoci, perché tutto quello che riguarda le voci come indennizzi e cose di questo genere è molto più semplice per ragazzi stranieri, soprattutto se arrivano da alcuni paesi. Dopodiché, se arrivano in particolare dal Sud America, magari ci sono anche delle convenienze particolari e speciali, no? E ci sono società davvero specializzate, ma è il caso di dirlo, nel trattare, nel muovere un numero di giocatori assolutamente impressionante, comprando per sé, comprando per conto terzi, eccetera. Bisognerebbe conoscere tutto questo genere di operazioni e di sottobosco per poter esprimere un giudizio davvero, davvero più fondato. Antonio è in linea da Como, buongiorno. Pronto? Dica. Buondì, signor Granzini. Volevo dire solo una cosa, che la fortuna anche dell'Udinese è stata aver trovato Guidolin al posto giusto e al momento giusto. E perché dovrebbe essere in lui? E perché dovrebbe essere una fortuna quella di trovare un bravo allenatore? Sarà merito? Scusi, perché secondo me lui è proprio un uomo che è di lunga durata per una società, Guidolin, perché crede nel lavoro, perché quando avevano perso le prime giornate che era arrivato, che erano a zero punti, l'hanno tenuto e sono stati tranquilli, credevano in un progetto. Cosa ne pensa? Penso che lo stiamo dicendo da un anno e mezzo circa, e cioè esattamente da quando Guidolin perse quelle prime 5 giornate del campionato scorso e difeso dai Pozzo a oltranza, anche rispetto a malumori ambientali, a perplessità, a un litigio, si racconta, si dice, con Di Natale non proprio per educande, rispetto anche a turbolenze ambientali, la società lo difese a spada tratta e poi i risultati si sono visti, insomma. Però ripeto, è bello ogni tanto ricordarlo, a patto di non scoprirlo, perché non davvero non c'è nulla di inedito da questo punto di vista. Fabio, provincia Modena, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono tifoso del Milan. Volevo fare due domande velocissime. La prima, cosa ne pensa dell'involuzione di gioco, di forma, di tutto di Pato? E seconda cosa, invece, se è fantacalcio vedere De Rossi il prossimo anno nel Milan. Assoluto, grazie. Grazie a lei, non ho idea, non mi intendo di fantacalcio e quindi è inutile che mi esprima da questo punto di vista. Non lo so proprio. Pato è un problema, ma credo non da oggi nemmeno. Anche lì credo che Pato sia un po' che è un problema. Stamattina mi pare, sì, Emura certamente nel suo commento dice che l'entusiasmo con cui Pato gioca sembra essere quello di un precario in un call center, no? Insomma, non è la prima volta che Gianni azzecca un'immagine di quelle divertenti, ma è davvero così? Cioè, sembra che timbri un cartellino per facendo molta fatica a farlo, sembra scontento, sembra annoiato, insomma, sembra fuori registro da un punto di vista caratteriale e temperamentale prima ancora che tecnico. Poi le spiegazioni possono essere tante, c'è chi dice che patisce Ibrahimovic perché indubbiamente uno abituato ad avere tanti spazi davanti o comunque a saper sfruttare tanti spazi come Pato, è chiaro che trovare ogni tanto intasato nello spazio dove vorrebbe lanciarsi può essere un problema, però insomma, il campo poi è largo, no? Anche Messi ogni tanto, che è un altro che ama trovare spazi aperti, ogni tanto anche lui trova davanti qualcuno, ma intanto si levano, no? A differenza magari di Ibra, e poi li sfrutta per degli 1-2, trova delle soluzioni alternative, ma soprattutto ha l'entusiasmo, ha la voglia, ha la rabbia. Messi l'altra sera è andato a recuperare un pallone nella propria tre quarti, un pallone incredibile con una tigna senza sfiorare l'avversario e togliendoglielo pulitissimo. Il giorno che Pato farà una cosa del genere probabilmente lo fa un sindaco, perlomeno di Carnago, comune di cui fa parte il centro sportivo di Milanello. Quindi credo che quello sia indubbiamente un problema serio e non credo che, come dire, questa liaison di alto bordo gli giovi particolarmente da questo punto di vista, ma questa magari potrebbe essere un'illazione infondata. Stefano dalla provincia di Milano, buongiorno. Dottore, volevo porre un quesito sul Bologna. Ieri l'ho visto bene, potrà salvarsi, grazie. Stefano, bella domanda. Le leggo la classifica da sotto al sopra. Lecce 8, Novara 11, Cesena 12, Siena 14, Bologna 15, Chievo, Fiorentina e Atalanta 16, Parma 17. Io arriverei fin lì. Quante ne ho dette? Sono 2, 4, 6, 8, 9. 3 di quelle 9 van giù. Il Bologna ha dei momenti come ieri in cui fa pensare che non dovrebbe figurare in quelle tre, e io tutto sommato non credo, ma ha avuto e magari avrà ancora gli altri momenti in cui invece il sospetto è che in quelle tre ci potrebbe stare a pieno titolo. Chi può dirlo? Siamo a un terzo di campionato, è difficile adesso proiettare queste sensazioni. C'è qualche numero che comincia a essere significativo, ma ce ne sono altri che non lo sono ancora abbastanza. Un numero certamente significativo, in negativo secondo me, sono i punti che ha il Napoli. Con tutto il rispetto per le sue imprese in Coppa, ma 21 punti in 14 partite, cioè 21 punti su 42 disponibili, sono troppo pochi per una squadra che secondo quello che si pensava alla vigilia, dalle prime tre non avrebbe dovuto uscire, no? Come minimo, e invece ne ha davanti quattro, ma queste quattro sono tutte molto molto staccate, perché la più vicina è la Lazio, che ha 7 punti più su, e quindi finora, ripeto, giù il cappello per quello che ha fatto in Europa in un girone non impossibile ma certamente difficilissimo, ma nello stesso tempo però non è riuscito a contemperare il campionato. Sentiamo Mazzarri sul pareggio di ieri sera a Novara. Dispiace, al di là di degli episodi arbitrali che vedetela voi l'andamento della gara, dispiace anche perché nel primo tempo avevamo avuto la possibilità 2 o 3 volte di far gol e di sbloccare la partita, probabilmente sì, si sarebbe vista una partita anche un po' diversa. Loro sono stati bravi, lo sapevamo, ben chiusi, ben organizzati, molto anche vigorosi fisicamente, quindi hanno fatto la loro partita e ci è mancato l'ultimo passaggio, il tiro in porta. Per il resto sono contento anche della prestazione della squadra, anzi avevo più timore ancora di questa gara, visto che era la 7ª consecutiva, che venivamo da dalla sassetta di Villarreal, sapete tutti quanto ci è costata a livello di fisico e mentale. Vero, questo è indiscutibile, però è anche vero che era lunedì e quindi c'era stato un giorno in più per staccare, per provare a recuperare rispetto indubbiamente a quella fatica che più che fisica era stata una fatica mentale, una fatica di stress. Ci sono 5 ultra denunciati a Bologna per una sassaiola ieri contro tifosi del Milan, contro i pullman del Milan che ripartivano dallo stadio e tra l'altro insieme a 3... diciamo adulti, anche se per questo genere di persone la parola adulti mi sembra spesso spesa male, di 20, 26, 27 anni, ci sono anche 2 sedicenni, peraltro già conosciuti alla Digos di Bologna, come ultra rosso blu. Maurizio, provincia di Caltanissetta, buongiorno. Sì, buongiorno Garantini. Salve, io volevo solo dire una cosa, io ho notato che in TV, a proposito di Milan-Bologna, si è fatto un po' di disinformazione perché tutti hanno parlato del rigore non concesso ad Ibrahimovic, ma nessuno ha detto che quell'azione era stata fermata prima dall'arbitro per un evidente fuorigioco. Infatti l'azione è ripartita poi da un fallo, quindi perché si è parlato di compensazione, un rigore non dato al Milan e un rigore non dato al Bologna, quando invece sono stati... Ma non sono mica tanto sicuro che quell'azione fosse stata fermata, ma quella del braccio finale? Sì, infatti è ripartita poi con la punizione da lì, ma non ne ha parlato nessuno, né Sky, né Mediaset, neanche la domenica sportiva. Ma non ne parlo neanche io, perché secondo me non è affatto andata così, cioè ho l'impressione che così, non lo so, lo sa che la scomposizione, l'autopsia il giorno dopo degli episodi in campo sinceramente mi ha sempre lasciato abbastanza freddino, come normale che sia d'altra parte in un... no, se si parla appunto di operazioni di questo genere, ma a me non risulta, proprio sinceramente non mi risulta. Sa, io stamattina ho ricevuto le mail anche che andava espulso il portiere del Milan per il primo gol di Di Vaio, mi sto chiedendo allora vale tutto, no? Perché che danno ha riportato Di Vaio in quella circostanza? Tecnico no, perché fa gol, no? Fisico nemmeno, perché non è vero che lo tocca uscendo, ma lo tocca perché non può smaterializzarsi, ma non gli impedisce di calciare il pallone, tant'è vero che Di Vaio calcia perfettamente e prende quasi l'incrocio dei pali, però secondo qualcuno deve anche essere espulso a meglio. E allora secondo me qualcuno ha stravinto, nel senso che è vero che Rocchi ne ha combinate peggio di Carlo in Francia ieri, ma è anche vero che la fantasia di certi ascoltatori mi fa pensare che fosse toccato a loro, chissà che arbitraggio migliore avremmo visto, insomma. Vabbè, ultimo intervallo di oggi. Sentiamo che cosa ha scovato Nicola Filippone frugando nel suo archivio per un 12 dicembre. Sembra ieri. 12 dicembre 1993. A Tokyo il San Paolo si aggiudica per il secondo anno consecutivo la Coppa Intercontinentale. Dopo il Barcellona, a farne le spese è il Milan di Fabio Capello, che ha guadagnato il diritto a lottare per il titolo a seguito della squalifica del Marsiglia. Gli uomini di Tele Santana si impongono per 3-2. Decisivi risultano 2 vecchie conoscenze del calcio italiano, Toninho Cerezo e Luis Miller, autori di un gol a testa, e 2 futuri protagonisti del nostro campionato, Cafu e Leonardo. Le reti del Milan portano invece le firme di Massaro e Papin. La formazione allenata da Capello avrà una nuova chance di vincere la Coppa Intercontinentale l'anno successivo contro gli argentini del Vélez, ma a sorpresa sarà nuovamente sconfitta. Bella serie in effetti quella è mia. Vediamo il Barcellona domenica, mi pare che sia domenica la finale intercontinentale del Barça, sempre che superi giovedì una semifinale, che però insomma così a occhio sulla carta non dovrebbe essere un ostacolo troppo alto. Simone Ravenna scrive: il problema dell'Inter è di non avere giovani italiani in rosa e di non credere in quei pochi che ci sono, come è accaduto per Destro e per Santon. Io su Santon qualche dubbio sinceramente che non fosse quello che si pensava l'avrei avuto. Destro l'avrei tenuto, come, perché mi sembra un giocatore di grande interesse. Non l'avrei lasciato andare del tutto, come invece è stato lasciato andare. Alessandro ha chiamato da Lucca, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Buongiorno. mi presento come ex interista simpatizzante, fin tanto che Moratti resterà alla guida di questa squadra. Uh-huh. Questa come preambolo. Stavo la mia considerazione. Allora, Ranieri, no? Persona di 60 anni, con grossa esperienza, grandi squadre allenate, ma economicamente penso non abbia problemi. Ma chi gliel'ha fatto fare di andare ad allenare una squadra caotica come l'Inter? Lui sarà il prossimo allenatore esonerato sicuramente, in virtù di Guardiola che sarà a sua volta riesonerato. Cioè, né più né meno, una persona come Ranieri, che ci ha ricordato giustamente che l'Inter non è più quella della triplete, ma quello sarà, insomma, già visto, chi gliel'ha fatto fare? Chi gliel'ha fatto fare di andare in una squadra così? E poi una piccola considerazione e finisco. Nei giocatori papabili dell'Inter, in realtà, non c'è un italiano che venga preso in considerazione. Beh, no, c'è Faraoni, mi stava segnalando adesso Franco Piantani dalla redazione, che invece c'è questo ragazzo che da due partite è titolare, che sta anche cavandosela bene, e questo mi fa anche pensare che insomma ci sia anche da parte della società, non dico un obbligo, perché questo no, ma insomma magari anche un'indicazione a Ranieri, che se per caso riuscisse a trovare qualcosa, qualcuno da valorizzare un pochino, da far crescere rispetto ai tanti pensionati o pensionandi che ci sono in squadra, potrebbe essere cosa gradita. Questo credo che possa essere una riflessione che Ranieri ha fatto da sé e che magari la società ha appoggiato o comunque appoggia volentieri. Francesco Novara, buongiorno. Buongiorno, dottor, la ringrazio, mi piace sempre la sua analisi lucida. Io sono tifosissimo del Napoli, ieri ero ospite in tribuna e dico che Mazzarri ha visto un'altra partita. Sono incazzato perché la squadra, le dico, sape a che cosa? Il Milan quando è in crisi gioca, il Napoli quando non gioca fa pena, sbagliavano passaggi a due metri. Io ho l'impressione che la Juventus e il Napoli siano due squadre che o la mettono sul fisico, affidandosi anche a individualità, ma appena mollano un attimo non sanno gestire, soprattutto il Napoli non è in grado di gestire la partita. Io capisco che Mazzarri voglia mantenere su le sorti del Napoli l'umore, ma chi ha visto ieri, mi creda, era semplicemente imbarazzante. E oltretutto penso, al di là dell'arbitraggio, che l'arbitraggio secondo me ha favorito il Napoli, perché molte decisioni sono andate a favore del Novara. Le parla un tifosissimo, gradirei sapere il suo parere. Mio parere è che mi sono risparmiato Novara a Napoli e non ne sono particolarmente pentito, sinceramente, perché poi esiste un livello di sazietà oltre il quale secondo me è inutile andare, perché lo dicevo la settimana scorsa, perché dopo due giorni credi di ricordare che l'attaccante di quella squadra ha fatto quel movimento eccetera, e poi invece era tutta un'altra squadra, perché se ne vedi uno o più a sera non, per me è una poltiglia, un magma veramente da cui bisogna provare a cominciare seriamente a difendersi, e la difesa secondo me è la stensione quando non c'è nulla di imperdibile, no? almeno sulla carta, quindi non mi chieda dettagli, e non pensi però neanche che il Napoli, che se non è nato ieri è nato prima, è nato dopo l'altro ieri comunque, adesso ci mancherebbe altro che il Napoli dopo tutti questi sforzi che ha fatto nella fase autunnale della stagione non avesse la possibilità di giocare male o maluccio una partita subito dopo aver centrato l'impresa di Coppa. Vorrebbe dire che a Napoli qualcuno ha perso il senso delle proporzioni, o tra i napoletani. Stefano, Roma, buongiorno. Buongiorno, finalmente si parla di Roma, anche in una giornata così importante, ma io volevo sottolineare un fatto forse più sociologico che sportivo. Luis Enrique, che io ammiro in ogni caso come allenatore, anche per aver assunto una responsabilità non da poco, avvicinandosi a una società che è sicuramente difficile, non tanto per il pubblico ma soprattutto per la stampa. Stefano, tra 30 secondi chiudiamo, perché lei ha preso la circonvallazione, dica. Mi scusi, no. Volevo dire che il valore della Roma è un valore sociale. Lei immagini soltanto che io continuo ad andare allo stadio a 54 anni con gli amici con cui andavo allo stadio a 12. È un fatto totalmente diverso, una cosa. E questo sarà il valore della Roma o sarà il valore del calcio vissuto a questa maniera? Io non penso, per carità, è bello che accada a Roma, che accada all'Olimpico, Ma non credo che non accada a Udine piuttosto che a Viterbo, piuttosto che in Val d'Aosta o chissà dove. Il valore sociale, il valore di relazioni, il piacere di condividere un hobby e una parte di tempo libero. Grazie anche del suo intervento. Fabio Cantadori in regia, Franco Piantanida in redazione. Appuntamento a domani, buon pomeriggio.